Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Buonasera, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, settimana molto particolare per Radio 24 e quindi chiarisco subito che anche questa sarà una puntata un po' particolare. Perché? Perché esattamente 10 anni, e a questo punto un giorno fa, nasceva Radio 24. Era il 4 ottobre del 1999, ieri la radio lo ha festeggiato ampiamente lungo tutta la programmazione. Come già sapete, oggi numerosi programmi hanno dedicato spazi non tanto a rievocare ma anche a raccontare come è cambiata l'Italia e l'informazione in questi 10 anni, come sono cambiati i vari programmi. Quindi in questa prima parte, poi come sempre ci sarà la borsa, oggi la cronaca della giornata economico-finanziaria verrà condotta da Valentina Furlanetto. In questa prima parte vorrei, così, senza cadere nella retorica né quantomeno nella geografia, raccontare che cosa è stato, che cos'era 10 anni fa fare Radio 24. Come alcuni di voi ricorderanno, se è da tanto che ci seguono, questo programma non era condotto dal sottoscritto, io conducevo Salvadanaio, c'era un altro conduttore e anche un'altra sigla. Focus Economia. Allora, Marco Lo Conte, ti fa un po' effetto sentire la sigla, la prima sigla di Focus Economia, poi ne ha cambiate parecchie, il programma, come è giusto che sia. 4 ottobre del 1999, sì. Emozionato? Sì. Beh, insomma, 10 anni, sono passati 10 anni, è stata un'impresa che ancora oggi ricordo con grande affetto, perché è stata un'impresa da manipolo di eroi, insomma, che si provano nel momento eroi più... non lo so, manipolo sicuramente. Manipolo sicuramente, perché nel momento più assurdo per l'economia, per la finanza, ci siamo messi io e te poi, no, la mattina, al pomeriggio, a divulgare i temi economici e finanziari, a spiegare che cos'era l'high tech, internet, quella che poi è diventata, è stata riconosciuta come una bolla speculativa, no? Ah, le crisi che ne sono seguite, è un costante stretto rapporto con gli ascoltatori che nel corso di questi 10 anni sono rimasti spesso molto fedeli, molto affezionati. È la cosa più bella, credo, che la radio abbia creato in questa fase. Sì, ripeto, il rischio, diciamo, di essere retorici è sempre dietro l'angolo, però obiettivamente va detto che gli ascoltatori di allora, lo vediamo da molti sms, mail che sono arrivati in questi giorni, quando è stato detto che avremmo festeggiato i 10 anni di Radio 24, molti ascoltatori sono ancora ascoltatori della prima ora, per fortuna ce ne sono aggiunti anche molti altri. Dicevamo, 4 ottobre del 99, una sfida, ne parleremo fra poco anche con chi quella sfida, diciamo, l'accolse in pieno, in quanto allora era direttore del Sole 24 Ore come quotidiano, ma anche direttore di Radio 24 dal punto di vista editoriale. Però vorrei restare alla testimonianza in questo momento. Molta emozione, un po' di follia, oltre che di eroismo, se mi permetti, perché l'idea di portare l'economia in radio, non semplicemente attraverso un GR dei servizi, degli approfondimenti, ma con un programma di un'ora, che poi diventò di un'ora e mezza, beh, insomma, sembrava quasi un'operazione, non dico destinata al fallimento, ma a quasi una nicchia di ascolto. E invece il successo di questa radio testimonia che quella scelta fu azzeccata, perché l'idea di raccontare i numeri, di capire che cosa c'era dietro un freddo dato, ci ha permesso di spiegare il tessuto economico del paese, come si svolgeva, come si dipanava nel tentativo di vincere le sfide in Italia, all'estero, contro le difficoltà di ogni tipo, le valute che fluttuavano, la congiuntura che cambiava. A questo proposito mi fa molto piacere ricordare una persona che ha collaborato, certo, con grande assiduità a Focus Economia, che è Massimo Bongiovanni, inviato del Sole 24 Ore, che purtroppo non è più con noi da qualche tempo, e che ha collaborato in maniera stretta, ci ha trasmesso anche, sì, il piacere, la voglia, la passione di raccontare l'economia di questo paese, le storie di 1000 imprese che ogni giorno sui mercati combattono la battaglia e tentano di vincerla con tutte le loro forze. Ecco, credo che gli ascoltatori abbiano percepito la passione che noi abbiamo trasmesso nel raccontare queste storie, queste vicende che andavano dietro, come dicevo, i vecchi aridi numeri, ma che invece sono il tessuto connettivo del paese. Sì, lascia che appunto mi associo alla memoria e al ricordo di Massimo Bongiovanni, che fu, lo dico, anche se sapete che questo programma non è mai biografico, una volta tanto, una volta ogni 10 anni, Semel. Ce lo possiamo permettere. Ogni 10 anni ce lo possiamo permettere. Massimo Bongiovanni fu la persona che seguì proprio fianco a fianco me e Marco Lo Conti. Io quel tempo conducevo Salvadanaio, Marco Focus Economia, dandoci non solo consigli, ma anche per la sua conoscenza del tessuto produttivo del paese, ma proprio anche una voglia di andare a scavare, essere curiosi, non fermarsi appunto ai numeri, alle frasi fatte e anche ai luoghi comuni. Dicevo, sfida che adesso sembra facile, io non voglio parlare della concorrenza perché sarebbe scorretto, però ricordo benissimo che, quindi lo faccio, che un anno e mezzo dopo che Radio 24 era partita con appunto Salvadanaio la mattina e Focus Economia il pomeriggio, anche la RAI, e questo ci onorò, perché insomma quando lo fa il tuo concorrente principale, la nave ammiraglia, anche la RAI mise in cantiere due programmi dedicati, uno alla borsa e un altro all'economia, a significare che si poteva parlare di economia anche in radio. Facile a dirsi adesso, un po' più difficile scommetterci allora. Ecco perché ringrazio per averci raggiunto in collegamento Ernesto Auci. Buonasera direttore. Buonasera, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, Ernesto Auci nel 1999 era direttore del Sole 24 Ore come quotidiano, direttore editoriale anche della radio, e quindi contribuì assieme ad Elia Zamboni, allora direttore, ma ne abbiamo già parlato, direttore responsabile di Radio 24, alla nascita del progetto vero e proprio. Direttore Auci, ci voleva un po' di coraggio a immaginare una radio che si occupasse solo di notizie, solo parlata, niente musica, e già questo sembrava una follia, per di più con il marchio Sole 24 Ore, per di più con due programmi dedicati alla finanza personale, la mattina e il pomeriggio, a raccontare la cronaca della giornata economico-finanziaria. Sì, ci voleva coraggio, però noi eravamo molto fiduciosi sul successo, il riconoscimento che stava avendo in quel momento il Sole 24 Ore. Era stimato da tutti, rispettato da tutti i politici sia di destra che di sinistra. D'Alema, che era Presidente del Consiglio, disse che era il primo giornale che guardava la mattina, e insomma era arrivato a oltre 400.000 copie. E non era una questione di schieramento, era una questione che veniva apprezzato lo stile informativo del giornale, cioè la qualità dell'informazione. Allora su questa base si poteva, naturalmente cambiando poi le esigenze, perché la radio è diversa dal quotidiano, però sostanzialmente mantenere quello che era lo stile informativo del Sole 24 Ore, giornale, ma anche agenzia, perché c'era un'agenzia Radio Go, c'era un sito internet, c'era diciamo un po' un esperimento di multimedialità, e quindi contavamo su questo pubblico evoluto che voleva sapere le cose, non schierato, non necessariamente militante, che noi servivamo col quotidiano, volevamo servire con la radio, volevamo servire in internet, con l'agenzia, insomma con tutti i mezzi che la tecnologia mette a disposizione. Ecco, devo dire che questo approccio, questa linea editoriale che resta tuttora nel Sole 24 Ore, l'agenzia Radio Cor la conoscete, avete immagino in alcuni casi anche imparato a conoscerla, perché ogni giorno c'è un collegamento con la borsa, oltre che vari collegamenti durante la giornata proprio dentro Focus Economia, l'agenzia di stampa Radio Cor, il quotidiano Sole 24 Ore, che è rimasto in questi 10 anni il nostro riferimento, dico nostro anche per la radio e per chi conduce questo programma, per i temi, per l'approfondimento, per l'utilizzo dei colleghi. Ci mancherebbe, non avremmo neanche potuto immaginare, Marco Lo Conte, di organizzare un programma come Focus Economia e anche come Salvadanaio senza avere dietro la struttura del Sole 24 Ore, la redazione, la caporedazione, gli inviati. Beh, è stata anche un po' una scoperta in un certo senso, perché né io né te venivamo da Sole 24 Ore. Esatto, se venivamo da fuori, io avevo fatto radio per altri 8 anni precedentemente, un po' di televisione, un po' di collaborazioni, però non avevo nel mio DNA il Sole 24 Ore, avevo fatto finanza, ma un po' di economia, però sapere quante cose conoscevano i colleghi del Sole 24 Ore fu una rivelazione. La cosa fu, non dico difficile, ma fu agevole riuscire a convincere i migliori, insomma le persone che avevano delle cose da raccontare, a veicolarle al pubblico radiofonico. E fu spesso una rivelazione, persone che sembravano molto legate a un proprio piccola nicchia, il petrolio per esempio. Roberto Capezzuolo è un grandissimo esperto, ma anche un grande divulgatore dei meccanismi, dei temi del greggio, delle materie prime. Ricordo lui per ricordare tutti, non voglio fare gaffe o trascurare nessuno, ma è veramente un bacino di conoscenze, di sapienza straordinaria, e spero che i nostri ascoltatori abbiano imparato molte cose attraverso loro e attraverso loro, attraverso noi, insomma. Direttore Auci, tu ricordavi l'idea appunto che un gruppo come Sole 24 Ore, forte del quotidiano, con la presenza di un'agenzia di stampa, internet in fase di sviluppo, la decisione appunto che portò a creare una radio all news, come si chiama in gergo, news and talk per la verità, cioè notizie e parole. Possiamo però dire, riallacciandomi a quanto ricordava adesso Marco Lo Conte, che all'inizio diciamo fu il Sole 24 Ore come quotidiano a insegnarci il linguaggio per raccontare l'economia, però un po' come nel famoso detto romano sulla conquista di Roma da parte di Atene, conquista di Atene da parte di Roma, poi in qualche modo anche noi abbiamo aiutato i colleghi del Sole 24 Ore a modificare il loro linguaggio quando parlano per radio? Beh, sicuramente, ma questo era auspicato, nel senso che comunque la radio poi ha un suo stile informativo, devi parlare in un certo modo, non è come scrivere un articolo, quindi i colleghi del Sole 24 Ore, ma soprattutto le persone nuove che sono andate a fare la radio, hanno fatto la radio, non il Sole 24 Ore, cioè non hanno letto l'articolo del Sole 24 Ore. Poi è chiaro che un po' di circolarità della multimedialità aiuta anche i giornalisti che poi scrivono, fanno la carta stampata o che fanno altre cose tipo il sito internet. Quindi l'informazione ha una sua circolarità, la scommessa era quella di creare proprio delle redazioni multimediali, scommessa che oggi ritorna di grande attualità anche purtroppo in seguito alla crisi dell'informazione in generale, per cui è chiaro che bisogna andare verso delle redazioni integrate, capaci, no? Integrate in qualche modo, capaci di muoversi su vari mezzi, capendo qual è la specificità di ogni mezzo. Restiamo adesso sull'economia, fermo restando però che sono molto d'accordo con Marco Lo Conte che alcuni colleghi che magari quando tu li leggevi sembravano aridi, asciutti, perché aride e asciutte erano le notizie, che per cui molto secche, molto piene di dati, molto, poi si rivelarono una scoperta in onda, perché carichi di emotività e anche appunto di così di pathos nel raccontare le cose e non semplicemente conoscitori quasi tecnici di certi settori, e fu una bella scoperta anche per noi. Direttore Auci, che economia era quella in cui si decise di lanciare Radio 24? Che mondo economico era? Intanto non c'era ancora l'euro, e alcuni diranno per fortuna. Non c'era l'euro, ma era stato deciso di entrare nell'euro. Ma rispetto adesso, in cui noi ormai abbiamo una concorrenza, lo dico anche sana, gli ascoltatori quando io dico qualche castroneria, e purtroppo capita, mi correggono nell'arco di pochissimi minuti, se non secondi, perché magari sono su internet, stanno controllando altre fonti. Insomma, allora c'era un'economia in cui sì, si vedeva qualche barlume di new economy cosiddetta, ma rispetto adesso tu che insomma, hai lavorato nella stampa tutta la tua vita, che differenze noti sostanziali? Beh, lì c'era, oggi l'informazione certamente c'ha questa caratteristica di maggiore rapidità che allora ancora non c'era sostanzialmente, però devo dire, dal punto di vista del clima economico del momento, era un momento di boom economico dovuto alla bolla della new economy, e c'era un po' di euforia, un po' di quella che era un po' un eccesso anche di euforia. Questo certamente stava spingendo il mercato, stava facendo sì che molti richiedessero maggiori informazioni anche economiche. Poi non è che il Sole 24 Ore o la radio, tantomeno la radio, si occupa solo esclusivamente di economia. Assolutamente. Certamente dà anche la politica, dà anche la cronaca, però il problema per un ascoltatore o comunque un lettore del giornale è quello di capire e fidarsi della selezione delle notizie che l'insieme dei giornalisti fanno. Le notizie sono milioni ogni giorno, per forza di cose bisogna dare una selezione, dare una gerarchia di priorità, cercare di far capire al lettore, al fruitore della notizia, al fruitore della radio, qual è quella più importante, quella che comunque deve sapere. Questo è il modo, è l'informazione vera, la novità vera, se vogliamo, di Radio 24 e la specificità del Sole 24 Ore. Ti faccio una domanda, così vorrei una risposta il più sincera possibile. Sarebbe, tu ricordavi il clima economico di allora, beh, era un'Italia in cui si cresceva, ma soprattutto tutto il mondo aveva una massa enorme di capitale da investire, delle volte anche investiti in maniera troppo così leggera, sì. Da lì poi la bolla della new economy, però c'era una voglia di investimenti incredibile, anche e soprattutto di investimenti pubblicitari. La domanda è questa: sarebbe possibile in questo clima economico lanciarsi in un'impresa come quella di 10 anni fa? Perché adesso oggettivamente sappiamo come vanno sia i numeri della pubblicità a livello generale che a livello radio. Non è facilissimo rispondere. Certamente questa è una situazione diversa. Oggi siamo non al momento della bolla, della crescita della bolla, ma siamo al momento in cui una bolla analoga, anzi molto più grave di quella che è stata l'esplosione della bolla della new economy, e quindi siamo nel momento in cui la bolla è già scoppiata. Per cui siamo anche nel 2001, poi venne la crisi, dopo la scoppiata della bolla. Quindi oggi è più difficile. Ciononostante, bisogna che l'industria editoriale continui ad investire, magari non su radio, ma certamente ci sono altri mezzi da sviluppare. Cito per tutti internet, dove mi pare che molti degli editori stanno cercando una via per poter fare internet guadagnando qualcosa, o comunque facendo pagare le notizie, o facendo un mix notizie pubblicità, eccetera. Ma insomma, internet deve trovare un modo per poter reggersi economicamente. Per inciso, visto che questo resta un programma di economia, anche se oggi è una puntata molto particolare, vi ricordo la notizia che abbiamo raccontato la settimana scorsa, cioè che in Gran Bretagna per la prima volta nei primi 6 mesi del 2009 la raccolta pubblicitaria di internet ha superato la raccolta pubblicitaria della televisione. Evento epocale in questo settore in un paese sviluppato e ricco come la Gran Bretagna. Marco Lo Conte, tu sei rimasto da Sole 24 Ore, hai condotto dopo Focus Economia, Salva Danaio, io e te ci siamo alternati. Che cosa ti è rimasto, visto che tu adesso da anni lavori a Plus, che è l'inserto, il dorso che esce il sabato del Sole 24 Ore dedicato al risparmio gestito e alla finanza personale? Che cosa ti è rimasto dell'esperienza radiofonica? Ma senza dubbio il rapporto con il pubblico, un rapporto caldo, un rapporto, diciamo, da pari a pari, perché insomma la televisione per esempio è un'altra cosa. La televisione, chi è in televisione viene visto dal pubblico come qualcuno che sta in alto, irraggiungibile, mentre chi parla alla radio, ne ho percezione ancora adesso, è un amico, qualcuno che ti entra in casa, nell'auto, nelle cuffiette mentre uno fa jogging per esempio, e ancora adesso incontro gente che mi dice la sento tutti i giorni. Io sono ormai 5 anni che non conduco più i programmi, la sento un po' per piaggeria, un po' perché il mio nome, la mia voce evidentemente ha tenuto compagnia per diverso tempo diverse persone, ma al di là di questo è il rapporto di grande amicizia. Io, l'altro giorno a un matrimonio mi si sono piazzati uno da una parte, uno dall'altra, due cugini, e mi hanno detto: menato, ma ti ricordi quella volta che dicevi che avevi intervistato? Ho detto 6, 7, 8 anni fa. Diciamo l'Alzheimer c'è per tutti. Direttore Auci, per concludere questa prima parte, e poi dico a chi sta scrivendo che ci sarà la borsa, ripeto, darò il testimone a Valentina Furlanetto per la cronaca di questa giornata economico-finanziaria. Il programma non è tutto una candelina sulla torta, però direttore Auci, oggettivamente, quando voi lanciaste il piano, visto che io e lo Conte siamo qua dai primi, dei primi giorni, sì, l'obiettivo era di arrivare, magari, se tutto andava bene, a 1 milione di ascoltatori. Cioè, te lo saresti mai immaginato che si sarebbero toccati 2 milioni di ascoltatori su una radio oggettivamente seria, intesa come argomenti seri, non c'è musica, c'è poco svago o gossip, insomma non era facile. Non era facile, però io adesso non è che avevamo immaginato i 2 milioni, ma certamente si cercava di andare più in alto possibile. Devo dire, tanto per dire, la radio è un po' il gruppo Sole 24 Ore, oggi si parla molto della libertà di stampa, c'è, non c'è, eccetera. A me sembra più importante di tutti che questa radio dimostra, no, che c'è la libertà, si può fare un prodotto informativo onesto, naturalmente non tutti possono essere d'accordo su ogni singola presa per di fortuna. Posizione, e per fortuna che è così, però tutti riconoscono che è una cosa onesta, che i giornalisti fanno un lavoro informativo e non sono militanti di questo o quello schieramento. Questo poi è il ruolo del giornalista. E la radio, questi 10 anni ormai di storia lo dimostrano, è una proprio testimonianza vera della possibilità di avere una stampa libera. E che io devo dire, penso che Marco Lo Conte sarà d'accordo con me, che noi personalmente nel condurre Focus Economia e Salvadanaio abbiamo avuto massima libertà, cioè nessun tipo di pressione che uno può immaginare politico. Ogni tanto io rido, delle volte mi arrabbio anche quando vedo dei messaggi che vedono sempre un elemento dietrologico: ah, tu hai parlato di quel titolo perché state con quel gruppo, oppure ce l'avete con quel gruppo perché ti fate per l'altro. Ogni tanto anche fermarsi alla prima lettura, cioè dire no, parliamo delle cose perché ci sembra una notizia da commentare, non perché ci sono 2, 3, 4 livelli diversi di interpretazione, sarebbe anche bene, un po' meno dietrologia. E io devo ringraziare personalmente tutti i direttori che ho avuto per la libertà che mi hanno dato anche di sbagliare. Certo che un direttore poi le indicazioni te le dà sulla linea editoriale, ma mai pressioni di lobby o di parte. Assolutamente no, ma anzi, come dire, grande rispetto per la notizia. Io quanto sì, dicevo e prima, il rapporto col pubblico, perché il pubblico ti dice qual è il tema, qual è quello che interessa da investitori, per esempio, per gli ascoltatori di Salvadanaio, per chi deve investire. Per chi invece deve, come dire, produrre, deve essere sui mercati, quali sono i problemi principali e le opportunità principali. Questo è stato molto, molto utile, e c'è una sacralità della notizia, questo dobbiamo ribadirlo, perché uno può anche avere delle idee, avere delle convinzioni anche molto forti, però di fronte alla realtà bisogna spogliarsi dalle proprie convinzioni e guardarla, perché sennò si vive in un mondo inutile. Sì, devo anche dire massima attenzione in questa redazione per la notizia e per gli ascolti, cioè, nel senso, anche se io ritengo che una cosa sia una notizia importante, se poi non ho un riscontro, cioè, me la metto via e mi metto a parlare di cose che interessano chi sta fuori, non chi sta dentro e conduce. Grazie Ernesto Auci. Anche per il futuro, no? E anche per il futuro, ci mancherebbe, noi finché siamo qua non cambiamo. Purtroppo alcune cose si cambiano in questi 10 anni, potevo buttarle in maniera più biografica, cosa è cambiato in questi 10 anni, ma meglio di no, perché i 10 anni sono passati per tutti. Grazie Ernesto Auci. Grazie, grazie a Marco Lo Conte. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per quest'ultima, ultimissima e piccolissima parte ancora dedicata ai 10 anni di Radio 24, nello specifico ai 10 anni di Focus Economia, dopo aver raccontato con chi lo condusse per primo, Marco Lo Conte, e con chi coordinò l'intero lancio della radio, ossia Ernesto Auci. Di Elia Zamboni avete già sentito, era il direttore. Allora vorrei con voi ripercorrere in maniera veramente veramente veloce, però giusto come qualche spunto, qualche flash, perché 10 anni sono passati per tutti, la memoria è quello che è, non è mai stata molta, ma è andata anche via via peggiorando. E allora 10 anni di storia economico-finanziaria attraverso Focus Economia. Focus Economia. Eh sì, perché con questa sigla abbiamo raccontato lo scoppio della bolla della New Economy, i titoli che calavano, qualcuno dirà un déjà vu, ebbene sì, e titoli che ormai sono scomparsi dall'orizzonte degli, dei risparmiatori, ma insomma Poligrafica San Faustino, Finmatica, Freedomland, chi è che se le ricorda? Lo stesso Seat Pagine Gialle fu un caso assolutamente della New Economy. Da lì poi si passò nel 2001 a uno degli anni, a un paio d'anni difficilissimi sul fronte economico-finanziario, oltre che di politica internazionale. Perché dico difficilissimi? Perché praticamente a fine del 2001, molti ricordano chiaramente le Torri Gemelle, ma ci fu anche il crack finanziario dell'Argentina. Una crisi maturata in tutti gli anni 90, un crollo mai visto prima e che ha coinvolto purtroppo 450.000 risparmiatori italiani che di questi bond non hanno più visto nulla, ahimè, ed era il 23 dicembre quando in diretta raccontammo che l'Argentina era stata dichiarata insolvente, era in default sul suo debito. Era invece il novembre del 2002 quando vi fu un primo crack di una società italiana che purtroppo rappresentò il modello per altri fallimenti successivi. Mi riferisco alla Cirio, il mancato pagamento di 150 milioni di bond in scadenza, di obbligazioni in scadenza nel novembre 2002. Lo stato di insolvenza si allargò subito, coinvolgendo praticamente 7 emissioni obbligazionarie per un valore di 1 miliardo e 120 milioni di euro. 35.000 risparmiatori italiani restarono, mi dispiace dirlo, fregati da queste obbligazioni che le banche avevano a loro venduto. E devo dire, così non perdiamo il vizio, che in molti casi, lo dimostrò lo stesso Sole 24 Ore, il debito delle banche verso Sergio Cragnotti era, o meglio, il debito di Sergio Cragnotti verso le banche era stato girato dalle banche stesse ai risparmiatori. Infatti, così come cala l'esposizione di Cragnotti verso le banche, aumenta l'esposizione dei Cragnotti verso i risparmiatori attraverso le obbligazioni che le banche stesse aiutarono a collocare. Era poi il dicembre del 2003 quando avvenne il crack più famoso della storia recente italiana, quello di Parmalat. Ora vedo già ascoltatori che dicono: ma insomma, 10 anni di sfighe. No, non possiamo raccontare le giornate normali, restano alla memoria le giornate più tormentate. 145.000 risparmiatori coinvolti come debitori della Parmalat, 7 miliardi di titoli in giro soprattutto per l'Italia. Il 19 dicembre 2003 la Bank of America comunica che non esisteva un conto di cui Callisto Tanzi continuava a raccontare l'esistenza. Il conto Bonlat valeva, secondo Tanzi, 4 miliardi di euro ed era, diciamo, la cassaforte che garantiva la Parmalat di esistere e di avere tutti questi debiti sui mercati. Nel momento in cui la Bank of America dice questo conto non esiste, e poi si scoprì che fu una fotocopia fatta con lo scanner, in quel momento Parmalat va in default, va in fallimento. E il 19 dicembre lo abbiamo raccontato in diretta con la responsabile di Standard & Poor's, Maria Pierdicchi, che solo allora levò il rating, o anzi abbassò il rating portandolo a livello di default, di fallimento. Prima di tutto andiamo con l'ultima notizia, quindi il declassamento del debito. Default è un termine che purtroppo abbiamo conosciuto e imparato a conoscere ai tempi dell'Argentina e poi della Cirio. Dottoressa Pierdicchi, amministratore delegato di Standard & Poor's, buonasera e grazie per essere con noi. Buonasera. Allora, come sempre da prassi, sul declassamento in sé attendiamo il vostro comunicato. Immagino che la notizia di questa mattina della Bank of America, che dice che quel documento che attestava che Parmalat attraverso la Bonlat aveva 3,9 miliardi di euro lì depositati e dice che il documento è falso, vi abbia spinto a questa decisione? Sì, no, il comunicato è uscito e in realtà noi abbiamo abbassato a D per l'effetto del default che di fatto si è verificato sul pagamento dovuto sulla put option brasiliana, che per noi tecnicamente è un default, e in più abbiamo ritirato il rating, quindi la decisione è duplice, in quanto non possiamo fidarci. Chiaramente sono emersi fatti che indicano che l'informazione che aveva fino ad ora supportato la nostra opinione di credito non è affidabile, quindi noi non siamo più in grado di dare di poter seguire la società in questa circostanza. Chiaramente la falsità di questi dati ha messo dei dubbi fortissimi su tutte le documentazioni fino ad oggi ricevute e condivise con Parmalat e quindi sulla sua credibilità. Così quel giorno e quei giorni difficilissimi, lo devo dire, perché non si capiva quanta fosse l'esposizione di Parmalat, che cosa sarebbe successo. devo dire che la fiducia a quel punto dei risparmiatori crollò letteralmente, certo, non come adesso, dopo le ultime vicende di un anno e due anni fa, ma insomma fu una botta grossissima, il più grosso fallimento di una società quotata a livello europeo, quello della Parmalat, ma soprattutto con degli strascichi che non si sono quasi più sopiti, perché lì dentro furono chiamati come in correità, quindi come corresponsabili, sicuramente Callisto Tanzi e Tonna, insomma tutto il gruppo dei furbetti di Collecchio, ma anche i revisori contabili, le società di certificazione del bilancio, il collegio sindacale e poi andando su nella catena la Consob, che fu accusata di non vigilare e di non essersi accorta di cosa stava capitando, le banche stesse con cui Tanzi aveva rapporti, addirittura la Banca d'Italia per alcuni versi, con uno strascico giudiziario importante che non si è ancora concluso. Ma diciamo, la vicenda Parmalat segnò a mio avviso uno spartiacque nel rapporto di fiducia. Si capì che ben 6-7 livelli di controllo non avevano funzionato, e per cui una persona come Callisto Tanzi e i suoi collaboratori erano riusciti a ingannare, falsificare documenti, vantare conti correnti inesistenti del valore di 4 miliardi di euro senza che nessuno se ne accorgesse. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, eravamo arrivati al dicembre del 2003, gennaio del 2004, vicenda Parmalat. Devo dire che poi si passarono, perlomeno dal nostro osservatorio qui a Radio 24, a Focus Economia, ci furono anni un po' più tranquilli sul fronte dei fenomeni epocali nella finanza. Il passaggio lira-euro, vedo molti che scrivono, sì, ne parlammo a lungo, perché devo ammettere che nemmeno noi capimmo subito che cosa stava capitando in quello scandalo, se così si può chiamare, del passaggio lira-euro di 1000 lire a 1 euro. L'Istat per mesi ci raccontava che l'inflazione sostanzialmente era sotto controllo, era a livelli pre-euro, e dall'altra parte avevamo decine di sms, mail e quant'altro, e anche l'esperienza nostra, diciamo, quotidiana, che ci dicevano il contrario. E mi ricordo decine di puntate in cui con l'Istat si cercava di capire com'era possibile che a noi sembrasse che tutto fosse aumentato, soprattutto i generi di largo consumo, alimentari, abbigliamento e il resto, mentre per l'Istat l'inflazione tutto sommato era cresciuta molto molto meno. Ma al di là del passaggio di lira-euro, appunto, che è di inizio 2002, gennaio 2002, dopo il crack Parmalat, la stagione economico-finanziaria procede senza, ripeto, grossi crack per fortuna. C'è invece una sfida molto importante, che è quella rappresentata dalla Cina, e decine di puntate anche in questo caso di Focus Economia si occupano delle difficoltà di alcuni settori manifatturieri nel competere con la Cina, nel competere con nel tessile, abbigliamento, calzaturiero, con una concorrenza, devo dire, spesso anche sleale, in dumping sotto prezzo. Focus Economia. La vecchia la sigla originaria continua a farci da viatico, e arriviamo praticamente ai giorni nostri. Nel 2007, agosto del 2007, in una puntata in cui teoricamente l'unico problema era trovare qualche notizia, perché si era a metà agosto, in realtà scoppia un bubbone con alcuni mutui da un nome molto strano, subprime, poi sono diventati, ahimè, familiari. La cosa sembra legata molto molto all'America, a un modo molto americano di concedere prestiti anche a chi potrebbe non avere la capacità di tornare questi prestiti, e invece la cosa non resta americana, si allarga sempre di più alla finanza globale, si cerca di tenere botta, si arriva all'estate del 2008 in cui l'unico problema sembra il prezzo del petrolio a $150 al barile, e invece la montagna di prodotti tossici e di carta su carta che si è accumulata in questi anni, che tutti hanno cercato di tenere nascosta, esplode come un bubbone, inondando oltre che di tossicità anche di timori e in alcuni casi di panico tutto il sistema finanziario globale. Era il 6 ottobre di un anno fa, quindi praticamente un anno fa quasi, il lunedì nero delle borse europee, una puntata difficilissima, anche perché, come sentirete da questo brevissimo estratto, i cali, i tonfi erano a livello di crollo, ma soprattutto non si sapeva dove si sarebbero fermati i listini. Adesso, per fortuna, e per ora invece lo sappiamo. 17:08, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e una forse delle più difficili da quando esiste questo programma. State calmi se potete, sembra l'invito più corretto da utilizzare oggi, anche se i mercati non lo stanno seguendo. I cali assomigliano a dei tonfi veri e propri, già li ricordavamo nel corso del GR. Insomma, le borse europee stanno perdendo tra il 7% e l'8%, con Milano assieme a Londra tra le peggiori. Il calo infatti in questo momento è dell'8,2% per quello che riguarda l'S&P MIB, dell'8,3% per quello che riguarda il MIBTEL. Peggio di noi non fa in questo momento nessuno, nel senso che Londra perde il 7,2%, Francoforte il 6,4%, Parigi il 7,3%, l'America perde un 4% sul Dow Jones e un 4,8% sull'indice Nasdaq. Per dare un'idea della difficoltà, usiamo degli eufemismi oggi, sennò si creano allarmismi, dicevo della difficoltà, nemmeno l'11 settembre del 2001 i cali erano stati così forti. Buonasera, senta, io mi allaccio alla cosa che avete detto prima, che Francia e Italia garantiranno anche loro i depositi però su conto corrente, ma le varie, voi sapete che le famiglie italiane anche per politica delle banche hanno poco conto corrente, quindi magari hanno delle obbligazioni bancarie, facciamo finta, non so, io ho delle Intesa, delle Cariplo, queste qui cosa succede? Diventano carta straccia oppure no, sono garantite? Ma allora, Alessandro. No, io direi questo, serve veramente moderazione, non mi sembra che nessuna banca abbia chiuso gli sportelli all'improvviso, no, non sono stati chiusi i conti, quindi è importante restare con i piedi per terra. Qui si sta ragionando su scenari, io mi auguro assolutamente non solo ipotetici ma del tutto remoti nel tempo, cioè non credo e non sembra assolutamente che all'orizzonte ci siano dei rischi per cui uno dice il mio risparmio va in fumo. Certamente quando si comprano dei prodotti finanziari che hanno una componente di rischio si deve sapere che se quel rischio aumenta aumentano anche le possibilità di perdere i soldi. Alberto da Udine ha chiamato all'800 24 00 24. Buonasera a voi. Io vi seguo quotidianamente e voi lo scorso anno alla vigilia di Ferragosto avete iniziato a parlare dei mutui subprime e poi è stato tutto crescendo. Ma io mi faccio una domanda, come tanti se la faranno, ma è mai possibile che tutto questo dipenda dal aver concesso dei mutui a clienti poco solvibili costruendo poi sopra un castello di carta? C'è sotto qualche altra cosa? Come lei dice, sotto il tappeto c'è altra immondizia che potrebbe scoppiare non legata ai mutui subprime? E purtroppo aveva ragione l'ascoltatore, c'era molta altra polvere, robaccia, spazzatura sotto il tappeto, come ormai abbiamo scoperto e sappiamo. Adesso c'è il nostro GR, poi la parola andrà appunto a Valentina Fornento al commento sulla borsa, oggi puntata un po' particolare, lo dico anche a chi si lamenta. Devo dire che molti di voi invece scrivono per farci gli auguri e complimenti che ne ricambio a nome di tutta la redazione. E su questo vorrei concludere. È stato possibile condurre e fare Focus Economia come abbiamo fatto in questi 10 anni grazie all'apporto dei direttori che abbiamo ricordato, dei conduttori del gruppo Sole 24 Ore, ma anche dei colleghi di Radio 24, di quelli che c'erano allora, di quelli che sono rimasti, degli altri che si sono aggiunti. Poi grazie anche a due persone che non sentite mai ma che hanno collaborato a questo programma fin dall'inizio, sia Barbara Bianchi e Mauro Del Corno, che sono i due collaboratori storici di Focus Economia e che mi assistono nella preparazione quotidiana del programma. Barbara Bianchi eccezionalmente in onda, e non ti ci abituare. Che cosa hai perso in questi 10 anni? Perché quello che hai guadagnato... Qualche anno di vita, sicuro. No, perso niente, credo guadagnato parecchio, un metodo di lavoro e conoscenza. E speriamo di essere qui tra 10 anni. E speriamo di essere comunque, di esserci qui tra in 10 anni. Esatto. Qui non lo so, poi non dipende solo da noi. Mauro Del Corno, anche per te, insomma, che cosa hai perso, oltre che guadagnato in questi 10 anni? Immagino che un po' di piaggeria sia d'obbligo se volete continuare a lavorare con me anche domani, però insomma vediamo anche di metterci un po' di sincerità. Ma diciamo che anche per me, come per Barbara, sono stati 10 anni molto importanti sia da un punto di vista professionale ma diciamo anche da un punto più ampio e diciamo da un punto di vista umano. 10 anni poi di lavoro intenso, gratificato dai tanti ascoltatori e dalle tante dimostrazioni di apprezzamento per il programma, che ci arrivano quotidianamente dagli ascoltatori, appunto. Ecco, come vedete, diciamo, sono stati tutti e due ben istruiti, nel senso che non ci sono le critiche vere, quelle che tutti i giorni accompagnano la creazione, produzione e anche post-produzione del programma. No, a parte gli scherzi, grazie a due voci che non sentite mai, ma il cui lavoro invece ascoltate poi come prodotto tutti i giorni. Grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno. Da Sebastiano Berisoni le auguro di una buona serata. IGR, poi Valentina Fulanetto con i mercati. Noi da domani torniamo alle 17 a fare il lavoro di sempre, a raccontarvi la cronaca di un'altra giornata economico-finanziaria. Buonasera da Valentina Furlanetto, bentrovati in quest'ultima parte di Focus Economia. Dopo i ricordi di questi primi 10 anni, l'attualità. Ripercorriamo insieme allora la giornata di queste notizie economiche e finanziarie. Il petrolio apre sotto i $69 al barile al mercato di New York, queste le quotazioni per il greggio. Poi per quanto riguarda l'economia mondiale, entro la fine del 2010, e ha detto oggi la Banca Mondiale nel corso della riunione del Development Committee, nel mondo entro il 2010, dicevamo, potrebbero esserci 90 milioni di poveri. E sempre da Istanbul, dove si è tenuta questa riunione, ha parlato invece il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. Ha detto: ci sono segnali di ripresa per quanto riguarda la recessione, ma la ripresa è lenta e fragile. Poi Draghi ha aggiunto: possiamo guardare però al futuro con speranza. E ancora notizie per quanto riguarda la recessione in corso. L'opinione autorevole di Nouriel Roubini, il professore della New York University, noto per aver anticipato la crisi del credito, ha detto: oggi la ripresa dell'economia globale è anemica a causa della disoccupazione. E ancora in Italia il contratto dei metalmeccanici, lo sapete, si sta discutendo di questo importante contratto di categoria. La Federmeccanica oggi ha proposto a FILM e UILM, due sindacati, un aumento salariale per il rinnovo del contratto 2010-2012 di €102 medie a regime per il quinto livello. E da Pavia ha parlato il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Vorremmo studiare e ragionare per capire, ha detto, se quella quota di Tremonti Bond che non è stata utilizzata dalle banche possa essere utilizzata in qualche modo direttamente dalle imprese, ha detto Marcegaglia, a chi le chiedeva se le risorse messe a disposizione dal governo alle banche attraverso i Tremonti Bond per sostenere le imprese potessero arrivare in qualche modo al sistema produttivo. Poi ancora parliamo di cassa integrazione. Le stime dell'INPS è aumentata in settembre, è aumentato il ricorso alla cassa integrazione, anche se si tratta del mese con la crescita congiunturale, quindi settembre su agosto, più bassa degli ultimi 5 anni. In valore assoluto, il numero di ore di cassa integrazione autorizzate aumenta sia nei confronti però di settembre 2008, più 437%, sia nei confronti del mese di agosto 2009, più 95%. E queste sono le principali notizie di oggi, ma occupiamoci invece di borsa. La borsa oggi positiva a Milano Piazza Affari, FTSE It's All Shares più 0,8%, scusate, FTSE MIB guadagna invece lo 0,79%, bene anche in Europa, Parigi più 0,69%, Francoforte più 0,75%, Londra un guadagno dello 0,7% per la piazza londinese, a New York il Dow Jones guadagna lo 0,66%, mentre il Nasdaq è in rialzo ora dello 0,68%. Ma per parlare dei temi della giornata di Piazza Affari abbiamo in collegamento Paolo Paronetto di Radio Corri il Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, una giornata con il segno più, con alcuni temi più importanti di altri. In particolare a Piazza Affari ha tenuto alta l'attenzione su Ciri dopo la sentenza, come sappiamo, del Tribunale di Milano che le ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale nell'ambito del lodo Mondadori. Quindi diciamo che i titoli si sono mossi molto. CIRI in particolare ha guadagnato l'8,2%, ma non solo CIRI, anche Mondadori e Mediaset. È così, Paolo? Sì, esattamente. Tutti i titoli legati al lodo Mondadori sono stati al centro dell'attenzione degli operatori per tutta la seduta di borsa. Protagonista è stata, come ricordavi tu, CIR, che ha chiuso il nuovo massimo dallo scorso settembre tra volumi 8 volte superiori alla media dell'ultimo mese. Ricordiamo che la sentenza di primo grado del Tribunale impone a Fininvest di versare quasi 750 milioni a CIR come risarcimento appunto per la vicenda del lodo Mondadori. Gli ordini di acquisto hanno premiato così anche l'azionista di riferimento di CIR, Cofide, che è salita del 6%, e anche la controllata L'Espresso, che è salita dell'1,5% circa. Un andamento invece un po' incerto e volatile è stato quello dei titoli legati alla galassia Fininvest, che dopo un avvio negativo hanno invece chiuso in rialzo. In particolare Mondadori ha guadagnato il 3,83%, ma anche Mediaset ha guadagnato lo 0,76%. Paolo, appunto, è una sentenza che penalizza almeno in questo momento Mediaset. Ovviamente ci potrebbe essere ora un ricorso in appello, come già hanno preannunciato, però insomma non si spiega un po' questo rialzo di Mediaset. Come lo spiegano gli operatori? Gli operatori notano in primo luogo, come ricordavi tu, che la sentenza è di primo grado e potrà essere contestata in appello, come già Fininvest ha annunciato di voler fare. D'altra parte alcuni operatori notano che anche se dovesse essere confermata la notizia, l'esercimento non avrebbe impatto sulle società quotate che sono controllate da Fininvest, dato che queste al momento non hanno bisogno di capitali, non c'è nessun aumento di capitale in corso, e anzi, secondo alcuni operatori, questo eventuale risarcimento da 750 milioni potrebbe spingere le controllate di Fininvest ad aumentare in futuro il flusso di dividendi proprio per garantire un ritorno di cash agli azionisti, e quindi in particolare a Fininvest. Una prospettiva che in una giornata come questa ha premiato e sostenuto i titoli che, come dicevamo, sono tutti riusciti a chiudere in territorio positivo. Torniamo a parlare di borsa con Paolo Paronetto, collega di Radio Corriere Il Sole 24 Ore. Dicevamo, il tema del lodo Mondadori ha avuto oggi in borsa delle conseguenze per alcuni titoli, ma vedo che anche Pirelli, che non riguarda ovviamente queste ragioni giudiziarie che hanno a che fare con Mondadori, anche Pirelli si è mossa in positivo, è il secondo titolo positivo nel listino principale, più 4,11%. Come mai? Pirelli è da qualche giorno che viene premiata da giudizi positivi da parte delle banche d'affari, quindi ha proseguito in questo trend al rialzo. In particolare oggi c'è stato un report di Equitas SIM che ha alzato il target price su Pirelli, e gli analisti hanno motivato la loro decisione soprattutto con la prospettiva di uno scorporo, di una divisione di Pirelli, con una separazione delle attività immobiliari, cioè Pirelli Real Estate, dalle attività negli pneumatici. Secondo Equitas SIM, le recenti mosse fatte dalla società indicano che proprio questa sarebbe l'intenzione di Pirelli, e quindi, scommettendo su questo scenario, hanno rivisto al rialzo il target del titolo. Allora Paolo, molti altri titoli in positivo, tra cui Autogrill più 3,85, Banco Popolare più 3,38%, però in generale sono state negative le banche quest'oggi. L'unica eccezione probabilmente Unicredit, anche in questo caso beneficia di un report favorevole, mi pare di capire. Sì, esattamente, Unicredit è stato l'unico titolo a essere in rialzo per tutta la giornata. Sul finale ha guadagnato terreno anche il Banco Popolare, ma tuttavia Unicredit è stata positiva fin dal mattino e ha chiuso in rialzo del 2,26%. A sostenere il titolo è stato in questo caso un report di Citigroup, che ha alzato il target price a 2,8 euro dai precedenti 2,4. Unicredit oggi ha chiuso a un passo dai 2,6 euro. Gli analisti hanno analizzato l'attuale situazione della banca e hanno soprattutto scommesso su una pronta distribuzione e quindi un ritorno al dividendo cash dopo l'aumento di capitale da 4 miliardi annunciato dall'istituto, che dovrebbe essere portato a termine nei primi mesi del 2010. Grazie a Paolo Paronetto di Radio Corriere Il Sole 24 Ore per questi aggiornamenti di borsa. E ora veniamo a parlare di ERG, perché oggi un incontro con la stampa ha parlato l'amministratore delegato Alessandro Garrone, ha confermato le difficoltà incontrate in questa fase congiunturale dal gruppo. Il secondo semestre non sarà migliore del primo e il bilancio 2009 sarà quindi pesante, ha detto. Ma la nostra situazione, ha continuato l'amministratore delegato, è buona, ci lascia ottimisti riguardo alle capacità di fronteggiare il momento per saper cogliere poi la ripresa. Garrone però non si è sbilanciato sul dividendo 2009 e proprio sull'impatto che la crisi ha avuto sull'azienda e sul settore petrolifero. Sentiamo proprio Alessandro Garrone intervistato da Enrico Pagliarini. Devo dire, ERG si è trovata all'inizio della crisi fortunatamente con una situazione finanziaria molto favorevole. Avevamo appena concluso l'operazione di partnership con Lukoil, che ci ha visto, oltre ad aver acquisito un partner molto importante, ci ha visto anche incassare un importo importante, che quindi ci ha dato una struttura finanziaria solida, e questo ci ha permesso, ci permetterà di passare un 2009 sicuramente pesante, soprattutto per quanto riguarda il nostro business raffinazione, che in generale a livello mondiale italiano sta avendo dei risultati negativi, e credo anche l'inizio del 2010 non sarà sicuramente un periodo eccezionale. Quindi finché la domanda non riprende, finché la situazione non si assesta, il nostro business sta vivendo una situazione difficile. Ripeto, ERG fortunatamente ha una situazione finanziaria solida, e quindi questo ci permette di guardare in modo ottimistico al futuro e anche di poter crescere nel business, ad esempio, delle rinnovabili, dove noi stiamo investendo, abbiamo un programma importante di investimenti e riusciamo a sostenerlo e a cogliere opportunità interessanti. Alcuni parlano di segnali di ripresa, qual è il vostro parere? Noi oggi non vediamo ancora grossi segnali di ripresa nella nostra attività. Sì, i consumi stanno pian pianino riprendendo, però ripeto, soprattutto in un business come la raffinazione, parlo di uno delle nostre attività, dove gli investimenti devono essere programmati per 2 o 3 anni prima di costruire degli impianti, e dove gli investimenti sono già partiti, la domanda cala, sicuramente per arrivare a situazioni normali di utilizzo delle capacità di raffinazione a pieno regime ci vorranno ancora 2 o 3 anni, questa è la nostra previsione. Senta, se le chiedessi dei consigli da dare soprattutto ai piccoli imprenditori italiani, che cosa si sente di dire? Ma difficile, ovviamente un po' di coraggio, anche se sembra banale, però un po' di coraggio, cercare di fare tutte le azioni anche in termini di risparmi, efficienza, efficienza nei costi, efficienza nel consumo di energia, cosa che facciamo anche noi. Eppure essendo produttori di energia dobbiamo essere molto attenti a come usiamo le nostre risorse, e questo e cercare magari anche di fare un po' più gruppo e anche attraverso associazioni e quant'altro, proprio per cercare di passare questo momento complicato. Un altro dei problemi di cui si parla spesso è quello del credito. Come è cambiato e come sta cambiando il vostro rapporto con le banche? Devo dire, appunto, proprio perché siamo partiti da una situazione finanziaria buona, il nostro rapporto con le banche è sempre rimasto ottimo. Ovviamente il costo del capitale è in parte aumentato, ma avendo noi disponibilità liquide importanti non ha pesato in modo particolare i nostri bilanci. Devo dire, l'ERG ha sempre avuto con le banche un rapporto ottimo, siamo sempre stati considerati un buon cliente, solido, serio, e quindi non è cambiato granché. Nonostante la situazione, come lei ci diceva, tutto sommato buona dal punto di vista finanziario, voi concluderete l'anno non bene, quindi con un risultato in perdita. Noi concluderemo l'anno non bene, diciamo, abbiamo fatto un primo semestre non buono e il secondo semestre non porterà risultati migliori, quindi sarà un anno in perdita. Ripeto, riusciamo a sostenerlo, a passarlo, certo che purtroppo nel nostro business, soprattutto il business della raffinazione ciclica, in un momento così fa subire alle aziende delle perdite importanti. Noi sappiamo che dobbiamo essere strutturati per poter reggere cicli negativi. E questo era Alessandro Garrone, amministratore delegato di ERG, intervistato da Enrico Pagliarini. Restiamo in settore energia, parliamo quindi ancora di temi che riguardano l'energia, parlando di Enel. Gli esperti di Enel considerano, hanno detto oggi, un obiettivo realistico l'ingresso in servizio della prima centrale nucleare in Italia il 1 luglio 2020. La selezione del primo sito è attesa per il 10 ottobre 2010, dopo la pubblicazione dei criteri per la scelta, attesi non prima del prossimo luglio. Quindi la selezione del primo sito è attesa entro un anno. E poi ancora sempre da Enel, il piano di Enel per il nucleare in Italia ipotizza la costruzione con l'alleata francese EDF di 4 reattori divisi in 3 centrali. Poi invece per quanto riguarda il tema not in my backyard, non nel mio cortile, il 40% degli italiani è favorevole sia alla costruzione di centrali nucleari, però la percentuale del sì scende al 17% se la risposta non è più in generale ma riguarda la propensione ad accettare o rifiutare una centrale nucleare nei pressi di dove si abita. In questo caso appunto dice no l'82% degli italiani. Cambiamo completamente argomento. Oggi, probabilmente lo sapete, l'avete sentito dai nostri GR, è scomparso Gino Giugni, è stato un ministro del lavoro, è stato anche padre dello Statuto dei lavoratori, aveva 82 anni, è morto a Roma dopo una lunga malattia. Era nato a Genova il 1 agosto del 27, è stato professore di diritto del lavoro all'Università di Roma e nell'83 è stato anche oggetto di un episodio, è stato gambizzato dalle Brigate Rosse. Molti appunto lo ricordano come ministro del lavoro e della sicurezza sociale nel governo Ciampi dal 93 al 94 e proprio del giuslavorista e senatore, padre dello Statuto dei lavoratori ha parlato Alessio Maurizi con il giuslavorista e senatore del PD, Pietro Ichino. Era un uomo libero, intelligente, arguto, generoso, sempre pronto a individuare le lobby e le piccole e grandi posizioni di potere che si autodifendono dalla vera libertà che deve contraddistinguere il mondo moderno, sia sul terreno accademico sia sul terreno più generale della società civile. È una persona con cui era molto piacevole stare e da cui si imparava sempre molto anche nel dialogo minuto di tutti i giorni. Poi certo ci ha dato una lezione ineguagliabile e importantissima per l'intero sistema di relazioni industriali nel nostro paese e per il nostro diritto del lavoro. Lei si sentirebbe di dire che Giugni è una persona che ha trovato fortuna nella società italiana, oppure con questo suo ruolo acuto di riformista, come poi sappiamo quello che gli è accaduto nell'83, ha trovato anche delle persone che gli erano contro? Certamente è stato aggredito dalle Brigate Rosse come uomo cerniera, uomo di comunicazione e di dialogo tra il movimento sindacale e le istituzioni. Come già in precedenza erano stati aggredite Rossa, Tarantelli e poi anni dopo D'Antona e Biagi, resta il fatto che tutti in Italia hanno tutte le persone oneste a destra come a sinistra, sul versante imprenditoriale come su quello sindacale, hanno riconosciuto l'enorme valore del suo messaggio. E con questo ricordo di Giugni chiudiamo questa puntata. Grazie a Fabio Cantadori in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione. Focus Economia torna domani.